Qualcuno aveva dei dubbi. Ah, c'era Domenico che voleva dirvi di salviamo il paesaggio, che si stanno auto-organizzando per il 21. Cos'è? Il mio portavoce ufficiale. No, vabbè, 21 aprile ci sono marce per la terra, un po' in tutta Italia. Ce n'è una a Roma molto bella. A Roma fanno un giro molto interessante. Qua credo che la facciano a Legnano. Sì, Legnano, certo. Io non ci sono perché sono in Liguria per altre due iniziative. No, per chiudere un attimo qua. No, sulla terza pista di Malpensa, ma comunque anche sul discorso del Parco del Ticino di venerdì prossimo. Vabbè, so, dai, parliamo con calma. Oh, io dovevo dirtelo. Ah, tra l'altro per dire sulla follia mi sono preso la grandine, devo finire qua. Meno male che l'ho preso a te. Preso, no. Dove ci sono le serate belle? Grazie a tutti.